America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. WikiLeaks has struck again, claiming that their latest document released today reveals important CIA hacking secrets. Beh, devo dire, non si sta fermi un minuto. Vorrei raccontarvi delle storie americane, come faccio ogni tanto, vorrei fare magari qualche puntata di solo andata, ma siamo letteralmente travolti in continuazione da sviluppi di cronaca chiave. E sono sviluppi di cronaca che definiscono questo primo periodo di presidenza Donald Trump, sia dall'interno, come nel caso della denuncia che il presidente ha lanciato contro Barack Obama, sia dall'esterno, come in questo caso. Perché cosa è successo? Lo avete sentito dal newscast televisivo. WikiLeaks ha colpito ancora. Cosa ha fatto? Ha pubblicato una prima tranche di 8.761 documenti datati nel periodo compreso fra il 2013 e il 2016. Ecco, questi documenti rivelano le tecniche, gli strumenti informatici utilizzati dall'agenzia per condurre le sue operazioni di spionaggio e rivelano l'esistenza di software che sono capaci, pensate, di controllare i computer in tutto il mondo, di infilarsi dentro i computer, di trasformare un televisore o qualunque altro dispositivo elettronico, per esempio uno smartphone, come un sistema per ascoltare qualunque conversazione. Sono delle misure di sorveglianza applicate nei confronti di sospetti, di atti di terrorismo, di personaggi davvero molto pericolosi. We've published quite a number of different sets of emails. So about 33,000 of Clinton's emails while she was Secretary of State. And then there's the Podesta emails we've been publishing. Podesta is Hillary Clinton's primary campaign manager. Ecco, avete sentito la voce di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks. Ecco, Julian Assange chiama questa nuova serie di Leaks Vault 7 ed è la più grande mole di documenti sullo spionaggio mai pubblicata, potenzialmente persino più esplosiva delle rivelazioni di Snowden. Perché? Perché mette a nudo le tecniche della CIA, mette a nudo il modo in cui certe operazioni vengono condotte, dà degli strumenti ai controspionaggi nemici. Per esempio, si rivela che tra i dispositivi coinvolti ci sono gli iPhone, gli Android, i Samsung. Gli hacker della CIA avrebbero anche sviluppato strumenti capaci, pensate, persino di bypassare i sistemi crittografati di app e di messaggistica come WhatsApp, Signal, Telegram, Confide. Insomma, siamo davanti a qualcosa che non è più fantascienza di spionaggio, ma a qualcosa che potrebbe mettere davvero in crisi le attività di controspionaggio americano. Infatti, sentiamo cosa ha da dire il generale Michael Hayden, ex direttore della CIA. If it is what it pretends to be, a very extensive file of the tactics, techniques, procedures, if it is that, it would be very, very damaging. Ecco, e dice, beh, se fosse davvero quello che Assange dice pretende di essere, cioè una descrizione minuziosa, dettagliata, estesa delle tecniche di spionaggio dell'agenzia, beh, dice, le conseguenze per la CIA sarebbero davvero molto, molto dannose. Ma sentiamo questa volta Snowden. I've been a systems engineer, systems administrator, senior advisor for the Central Intelligence Agency, solutions consultant. And ecco, Snowden, l'altra bestia nera dei servizi di controspionaggio americani, dice, beh, a me sembra che queste rivelazioni siano autentiche, solo una persona all'interno dell'agenzia avrebbe potuto conoscerli. Ecco, perché dice questo? Perché, come nel suo caso, sono stati altri agenti, sembra, che avrebbero collezionato questo materiale per poi darlo a WikiLeaks. Quindi è una nuova opera di tradimento interno. Quali sono questi programmi di spionaggio? Weeping Angel, hanno i nomi più strani, quindi Weeping Angel vuol dire angelo che piange. Usa le smart TV Samsung per ascoltare e registrare le conversazioni degli utenti persino quando i televisori sono spenti. Ecco, uno può immaginare, ma magari il televisore è acceso. No, quando il televisore è spento, quindi uno non può sentirsi sicuro da nessuna parte. Poi c'è Umbrage, un archivio di tecniche di ciberattacco raccolte dalla CIA che comprende anche tecniche utilizzate da altre nazioni, tra cui la Russia. Sempre secondo WikiLeaks, la CIA avrebbe utilizzato per mascherare le sue operazioni e confondere gli eventuali tentativi di risalire al mandante, per esempio del, si chiama così, malware, sono dei codici di provenienza russa. Sempre secondo le rivelazioni di WikiLeaks, la CIA utilizza il consolato americano a Francoforte come base per i suoi hacker che si occupano di Europa, Medio Oriente ed Africa. Sotto la copertura di una consulenza tecnica al consolato, gli agenti sono in grado di spostarsi senza controlli all'interno dell'area di Schengen e dunque portano a termine quegli attacchi informatici che richiedono la vicinanza fisica. Insomma, uno potrebbe dire, ma qui c'è un film, sarà un film incredibile, però purtroppo è anche un attacco, un ennesimo attacco a quella che è stata la stabilità dell'ordine mondiale che abbiamo conosciuto e la possibilità di indebolire quelle agenzie federali che poi agiscono, dobbiamo esserne coscienti, con l'intento di proteggere i loro cittadini. So we're going to do something that's great, and I'm proud to support the replacement plan released by the House of Representatives and encouraged by members of both parties. We're going to have something that's going to be much more understood and much more popular. Bene, cambiamo tema perché ieri si è parlato molto di riforma sanitaria. Qui sentite Trump, dice farò qualcosa di incredibile, sono fiero di appoggiare questo piano sanitario sostitutivo promosso dalla Camera, sono sicuro che questa riforma sarà compresa, apprezzata molto più della precedente. Poi in realtà ci sono state reazioni durissime da parte dell'ala conservatrice del partito che ritiene che in questo caso Trump, come dire, sia pragmatico e si sposti verso sinistra, si sposti più al centro-sinistra, lo hanno attaccato e a quel punto Trump ha detto se questo progetto di legge non passa ci sarà un bagno di sangue, preparatevi. Dunque Trump sempre pronto ad attaccare, sia che si tratti di avere come obiettivo Barack Obama o i suoi compagni di partito che cercano di resistergli, e devo dire sono stati molti. Sarà davvero importante capire sul piano politico se si andrà al voto. Tra l'altro la legge è appoggiata dalla leadership del Parlamento, sia Paul Ryan che Mitch McConnell, per capire, vi dicevo, se ci sarà la forza di far passare questa legge o no. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, un altro velo sui segreti della CIA e dei servizi americani cade. E dunque, non posso che proporvi di Peter Gabriel, The Veil. Tra l'altro, canzone usata da Oliver Stone nel film Snowden. Underneath the sky where the cold winds cross, there is an ocean where data flows. One man in a boat out on the sea, a sea of little bits of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. There's no safe place to go, now you've let that whistle blow. Show exactly what is going on, show exactly who's looking on. Stories start to leak, they color your name, while up above cloud turns to rain. You can feel the touch of a hand you know well, it's a very long way from Maryland. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!